Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Aldo Sutter, l'evoluzione dei prodotti per la pulizia, di Alessandra Scaglioni. L'impresa di cui vi parliamo oggi ha un nome noto, quello di una multinazionale italiana a proprietà familiare con una storia lunga oltre 150 anni che parte dall'aceto e dal lucido da scarpe. Oggi è presente in 40 paesi e si occupa di prodotti per la pulizia della casa. Alla guida c'è l'ingegner Aldo Sutter, quinta generazione. L'azienda è nata nel 1858, teniamo conto che Darwin scriveva proprio dell'evoluzione della specie e un'azienda si deve comportare con la propria evoluzione, quindi passando attraverso vari periodi. Iniziamo in Svizzera con la produzione dell'aceto di mele. 1858, quindi l'aceto andava sull'insalata, però non c'erano i frigoriferi, non esistevano e di conseguenza l'insalata si mangiava solo d'estate, l'aceto si consumava solo d'estate. E lì è nata la prima evoluzione della specie, trasformando un residuo della produzione di aceto in materia prima per produrre del lucido da scarpe. Il lucido da scarpe veniva utilizzato anche molto in inverno, le strade non erano asfaltate, le scarpe erano un bene prezioso e quindi si vendeva aceto d'estate e lucido da scarpe in inverno. Dal lucido si passa alla cera per pavimenti e l'attività si trasferisce in Italia. Ma a rendere famosa l'azienda e il marchio c'è un prodotto che si chiama Emulsio. È una cera per pavimenti che ha rappresentato una rivoluzione. Il lucido da scarpe alla fine è una cera per le scarpe e siamo passati alla cera per i pavimenti. Il mondo assolutamente stava cambiando, di conseguenza le strade si stavano asfaltando, meno consumo di scarpe, più mezzi di locomozione e siamo passati alla manutenzione quindi dei pavimenti domestici. In un primo tempo, quindi qui ci stiamo collocando all'inizio del secolo, quando parte della produzione è stata trasferita in Italia a Genova, per essere più vicino al porto di Genova dove ricevevamo appunto questa la materia prima di qualunque cera, questa cera carnauba che proveniva dal Brasile. E abbiamo sviluppato la cera per pavimenti. In un primo tempo era una cera solida, quindi difficile da dare sui pavimenti e la casalinga doveva stare inginocchiata e fregare per sciogliere questa cera sul pavimento e a fine degli anni 50 proprio una donna a capo della ricerca e sviluppo, cosa piuttosto anomala negli anni 50 avere una donna in quella posizione, è riuscita a inventare una cera liquida seguendo il principio dell'emulsione. E da lì è nato il marchio Emulsio. Un prodotto che è immediatamente un grande successo, costruito anche attraverso la pubblicità. In quel periodo la cura e la protezione e la manutenzione del pavimento erano qualcosa di molto importante e di conseguenza la rivoluzione del prodotto da solido a liquido era rilevante, i benefici pure, e quindi è stato subito un grande successo di mercato. Addirittura abbiamo iniziato con le prime pubblicità al cinema, quando la televisione non esisteva ancora, e stiamo parlando degli anni 30. Successivamente siamo stati tra i primissimi a fare pubblicità su Carosello, proprio con la cera Emulsio. Cambiano e crescono i prodotti, e intanto cresce l'azienda, che ad un certo punto della sua storia si divide in due. L'azienda si è sviluppata in tutta l'Europa, partendo dalla Svizzera, quindi incluso l'Italia. Poi per una questione di passaggi generazionali, due fratelli si sono divisi il mercato. Mio nonno ha ripreso la parte mediterranea, che poi ha sviluppato partendo proprio da Genova e rimanendo con tutte le attività e la fabbrica su Genova. Noi abbiamo iniziato praticamente dagli anni 50 a essere presenti in tutta Europa. Successivamente a questa divisione aziendale abbiamo riniziato un processo di evoluzione all'estero, direi a partire dagli anni 90, fine anni 80. La parte dell'azienda rimasta in mano alla famiglia di Aldo Sutter cresce in Italia e all'estero. I nostri mercati, cerchiamo di continuare con la tradizione della ricerca dei mercati latini. Quindi siamo andati in Francia, Spagna e Portogallo, principalmente in Europa, e abbiamo sviluppato già da una quindicina d'anni il Sud America. Quindi abbiamo delle filiali in Argentina, in Brasile e in Cile. Per fortuna, perché in questo momento sono mercati a grandissimo potenziale, anzi più che potenziale, si stanno sviluppando molto bene, e questo riesce un po' a compensare le difficoltà che abbiamo nella cara vecchia Europa. La crisi in Europa è evidente ed è sotto gli occhi di tutti e sta colpendo anche i beni di largo consumo, addirittura i beni primari. Quindi stiamo soffrendo in questi mercati, stiamo cercando di compensare questo entrando in nuovi mercati, il Brasile ne è un esempio, e soprattutto cercando di fare tanta tanta innovazione, che è l'unico sbocco per continuare a crescere. Sede vicino ad Arquata Scrivia. 7 filiali all'estero, più di 200 persone fanno parte del gruppo. Oggi l'azienda è strutturata in due divisioni: prodotti di largo consumo, attraverso grande distribuzione e negozi specializzati, e prodotti professionali, utilizzati per luoghi pubblici, ospedali, aerei, treni e musei in tutto il mondo. La storia è passata attraverso l'evoluzione dei prodotti. Il prodotto, un'altra grande svolta che abbiamo avuto, è stata l'invenzione di un prodotto per la pulizia dei mobili antistatico. È stata un'innovazione assoluta, per cui in pratica il panno diventava una calamita e la polvere non la si spostava, ma si lasciava attaccata al panno, che poi veniva lavato e la polvere veniva buttata via. Questo ci ha permesso di entrare in un mercato importante. Successivamente abbiamo fatto un'altra rivoluzione, che è stata la cera autolucidante. Fino a un decennio fa la lucidatrice era nel paniere Istat, adesso è impossibile comprare una lucidatrice perché non esiste più. Questo in conseguenza di avere ormai delle cere per pavimenti autolucidanti. Ma adesso le cere rappresentano una piccola parte del nostro fatturato, che abbiamo integrato con una serie di nuove categorie di prodotti, tra cui l'ultimo, Emulsio Salvambiente, è un concetto rivoluzionario contro lo spreco. Contro lo spreco perché in questo momento sia la crisi che l'ambiente hanno bisogno, non ci possiamo più permettere il lusso di sprecare, e questo concetto consiste nel mettere solo la forza pulente in un piccolo sacchettino che poi si scioglie nell'acqua, e quindi poter conservare e sfruttare all'infinito il flacone, il contenitore, il tappo, l'etichetta, e comprare solo la forza pulente. Le innovazioni del prodotto portano come conseguenza anche una nuova organizzazione della produzione, e anche su questo si concentra la ricerca. È una rivoluzione anche in termini produttivo, perché questa forza pulente che vendiamo pesa come uno spazzolino da denti rispetto a un qualche cosa che ha un equivalente bottiglia che peserebbe un chilo. Se io produco la stessa cosa, l'equivalente di un litro, lo metto in 30 centilitri, io ho un trentesimo di quello che facevo prima, quindi io ho una rivoluzione produttiva rilevante. Questo tipo di concetto, quindi di vendere solo il concentrato in un sacchetto idrosolubile, poi da diluire a casa nei flaconi che abitualmente abbiamo e che non dovremmo mai buttare via e riutilizzare, lo stiamo espandendo ad altre categorie di prodotto, e credo che nel tempo riusciremo a coprire gran parte delle categorie. Per ricerca interna abbiamo una dozzina di persone che si dedicano a questo, ma non è solo ricerca chimica, è anche ricerca sull'imballaggio e su nuovi modi di produrre, quindi anche le linee di produzione devono seguire, perché prima riempivamo delle bottiglie di plastica, adesso creiamo dei sacchetti che poi vanno imballati in maniera totalmente diversa, e quindi necessitano investimenti produttivi totalmente nuovi. L'azienda è arrivata alla quinta generazione e il tema delicato del passaggio generazionale è stato affrontato con una scelta precisa: passaggio al primo figlio maschio, il cui nome di battesimo inizia sempre per A. È un tema molto delicato. Noi abbiamo sempre avuto il primo figlio maschio, si faceva così allora, andava a guida dell'azienda. C'è stata solo un'eccezione proprio quando l'azienda era svizzera, per cui questo non era fattibile. Non era fattibile. Si era scelto di dividere l'azienda tra i due fratelli proprio perché c'era in corso questo atto di processo di internazionalizzazione. Un fratello ha preso i paesi mediterranei e un altro ha preso i paesi nordici. Cosa è successo? L'azienda, chiamiamola Germanica, è stata poi venduta a una multinazionale, la parte italiana mediterranea è rimasta nelle mani della famiglia. Ma ricordiamoci che stiamo parlando di qualcosa che è a cavallo di 3 secoli, quindi le regole certo si rispettano, però poi i tempi cambiano e ci si adegua. La scelta che riguarda la conduzione guarda invece al modello manageriale. Sulla conduzione familiare ritengo che non sia già più una conduzione familiare, né assolutamente dovrebbe esserlo, perché il vero valore sono le persone che lavorano in azienda, che questa è la vera responsabilità di un imprenditore che deve mettere in atto tutte le condizioni affinché questo bene venga tutelato e possibilmente trasferita alle generazioni future. Di conseguenza bisogna prendere il meglio che c'è sul mercato in termini di manager. In questo senso noi abbiamo una struttura totalmente managerializzata con appunto persone che provengono dalle più disparate realtà e di conseguenza riteniamo che questo passo, che non si possa considerare a conduzione familiare questa azienda. Il fatturato del 2012 è di 70 milioni di euro. Il 25% del fatturato del gruppo viene dall'estero. Per quanto riguarda il settore professionale, invece, arrivano dai mercati internazionali i 2/3 del fatturato. Dal punto di vista commerciale, Sutter è presente in Italia e in altri 40 paesi nel mondo, con filiali proprie o attraverso accordi con distributori locali. E, secondo Aldo Sutter, i prossimi obiettivi sono quelli che mettono insieme mercati esteri e ricerca. Portare le innovazioni in mercati geografici nuovi, perché vediamo che ogni volta che lo facciamo abbiamo un grande successo e quindi la strada dovrebbe essere questa, mantenendo il cuore della tecnologia e della produzione in Italia. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.